Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in parte riprenderemo un tema che era già emerso ieri, mi riferisco ai giovani italiani, ma oggi, alla luce dei dati diffusi e di cui vi hanno già parlato i nostri GR24 dal rapporto Migrantes, che riguarda non i flussi migratori ma riguarda gli italiani che studiano all'estero, sono 107.529. Quelli che si sono iscritti al registro, all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'AIRE, e soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni, sono il 37%. La meta preferita è stata la Germania, ma chiaramente anche la Gran Bretagna. E Mattarella, Presidente della Repubblica Mattarella, dice: attenzione, qui si tratta di un impoverimento del paese, i giovani devono poter tornare. Di questo parleremo unendolo a un altro tema che riguarda invece proprio la Gran Bretagna e i flussi migratori interni al continente europeo, perché la Gran Bretagna non è e si appresta a non essere più dentro l'Unione Europea. Dura replica oggi della Commissione Europea, l'ex premier belga Verhofstadt, che è capogruppo dei liberali ma soprattutto è il negoziatore del Parlamento Europeo con la Gran Bretagna per la Brexit, ha detto che l'Unione Europea difenderà i diritti fondamentali dei suoi cittadini nel Regno Unito. La Gran Bretagna è sempre stata un faro di tolleranza e diversità, è triste vedere che Amber Road infiammi le tensioni denigrando gli stranieri che lavorano negli ospedali, nelle scuole, nei cantieri della Gran Bretagna. Si tratta di gente che contribuisce al benessere del Regno Unito. Su questo devo dire che vi sono pochi dubbi, la Gran Bretagna ha anche la grande qualità, soprattutto Londra, ma non solo, di accogliere laureati diplomati, alti profili professionali, per cui ci sono sì i lavori più precari, ma ci sono anche decine di migliaia di giovani europei che contribuiscono a rendere così competitiva la Gran Bretagna, nel caso specifico Londra, sulla piazza finanziaria soprattutto, ma non solo. E questo va detto, perché l'idea di Amber Rudd che si possa sostituire un europeo con un britannico regge a parità di qualifica, e a quello che risulta a noi parità non c'è, nel senso che sono lavori che la Gran Bretagna non riuscirebbe a far coprire dai suoi lavoratori. Comunque il tema a questo punto è molto di scontro politico e non rende più facile la posizione della Gran Bretagna nella trattativa con l'Unione Europea, visto che la Gran Bretagna vorrebbe anche mitigare gli effetti sulla Brexit a suo vantaggio. Questo è comprensibile, ma non se poi reagisce in questo modo. A suo vantaggio cosa vuol dire? Vuol dire che c'è molto timore in Gran Bretagna per l'ipotesi che alcuni grandi gruppi soprattutto se ne possano andare. Faccio notare che la bufera scatenata dal ministro degli interni Amber Rudd, che è stata accusata di razzismo vero e proprio, si inserisce in un periodo in cui la sterlina continua a perdere valore su dollaro ed euro. Sul dollaro è al minimo da 31 anni a questa parte, sotto quota 1,27. Il rapporto euro invece sterlina è a 0,88. Ma soprattutto sono arrivate anche varie dichiarazioni di compagnie, per esempio penso a EasyJet, per la prima volta vede gli utili in calo dal 2009, pesano gli attacchi terroristici e la Brexit, il titolo è ai minimi dal 2013, ma soprattutto avrebbe detto oggi il numero uno di Nissan, Carlos Ghosn, che Nissan potrebbe decidere di fermare la produzione del crossover in Gran Bretagna a seguito della Brexit, a meno che il governo di Londra non trovi soluzioni per compensare gli eventuali effetti sui dazi doganali. Cosa succede? Nel momento in cui tu non sei più nell'Unione Europea, sei un paese extra UE e come tale vieni trattato. Molti gruppi avevano e hanno sede in Gran Bretagna, anche perché quello gli permetteva, in un paese che ha una grossissima efficienza, ha una pressione fiscale molto più bassa, per esempio, dell'Italia, gli permetteva però di avere la loro sede europea. Se tu non sei più nell'Unione Europea, a quel punto devi ragionare di un'altra sede, a meno che non, tu non venga agevolato fiscalmente dalla Gran Bretagna a restare lì, perché avrai dei costi più alti per via dei dazi e per via del fatto che tutto quello che produce in Gran Bretagna a breve verrà dichiarato come extra Unione Europea. Anche di questo parleremo, parleremo della vicenda Esselunga dopo l'apertura del testamento di Bernardo Caprotti. Oggi trovate su tutti i giornali la sua scelta, e quindi la holding di Esselunga che va alla moglie Giuliana Albera e la figlia Marina, il 25% del capitale di cui poteva disporre, e quindi le due donne assieme alla legittima avranno il 66,7% del capitale. Ma in realtà, al di là dell'asse della parte del testamento e dell'asse ereditario, sarà l'occasione per ragionare anche su che cosa sarà il futuro di Esselunga. Gioiello, terzo gruppo italiano alla grande distribuzione, ha quasi il 13% del mercato, è soprattutto forte nelle regioni del nord e del nord-ovest, 151 punti vendita, però è chiaro che fa gola a molti anche, ne parleremo, per quello che sono le dimensioni della grande distribuzione, in particolare quella alimentare di cui stiamo parlando. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata, adesso arrivo anche alla borsa, partiremo anche con alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio in merito al PIL e l'andamento economico. Diamo prima la borsa, però: più 0,18% Milano, meno 0,1 Parigi, oggi poco mosse tutte le borse, Francoforte invariata, Londra meno 0,20, Dow Jones meno 0,60, euro su dollaro 1,11, peggior titolo anche oggi in Monte dei Paschi, meno 3,34% tra quelle maggiore capitalizzazione, a 16 centesimi di euro a questo punto, 16,70. Poste italiane meno 1,5 come Atlantia, Pop Milano meno 1,20 come Mediaset, Luxottica perde lo 0,90. Chi guadagna? Unicredit il 2,40, A2A il 2,20, Azimut il 2%, Mediobanca 1,60% di rialzo, Generali l'1,30, Prismian più 1,1 come ST Microelectronics e UbiBanca. Intesa San Paolo anch'essa guadagna l'1,1%. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo con i 100 secondi oggi, quelli trasmessi tutti i giorni anche su RDS, perché riguardano una notizia che avremmo comunque dato in breve, ma importante, nel senso che Twitter sta calando bruscamente, in maniera, qualcuno parla di tracollo in borsa, a New York è riuscito a perdere oltre il 16%. Perché? Perché improvvisamente Google ha fatto dietro front e si è ritirata, così appare, dalla lista dei possibili acquirenti di Twitter. La notizia è stata data da un sito che sostiene che appunto il gigante di Mountain View non sarebbe sul punto di fare un'offerta, come tutti invece avevano scritto nei giorni scorsi. Su questo, dicevo, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, a firma oggi del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Platerotti. Non si profila un buon fine settimana per Twitter, il grande social network, la piazza del confronto e dello scontro anche politico, amato da milioni di persone, ma che sul piano finanziario continua ad affondare. La possibilità di un takeover, cioè di una vendita di Twitter, e che è circolata nelle ultime settimane, ha spinto in rialzo fino all'80% il titolo della società, ma questa mattina, proprio in apertura, il titolo è crollato del 20% proprio sul fatto che nessuno se lo vuole comprare. C'è addirittura chi dice che la prossima offerta sarà $1, un po' scherzando sul fatto che non si trovano veri compratori interessati al social network. Ma che cosa c'è che non va? Certamente gli utenti ci sono, ma la crescita dei ricavi è bassa e soprattutto la crescita dei nuovi iscritti è bassa, in un mondo, quello dei social, che evolve continuamente con nuove formule e nuovi, soprattutto nuovi modelli di relazione e di interrelazione sociale. Saranno momenti difficili un po' per tutti questi operatori, visto che il trend negativo in borsa non riguarda soltanto Twitter, ma anche gli altri social network. Comunque sia, i prossimi giorni saranno determinanti non soltanto per il futuro di Twitter, ma soprattutto per il rapporto fra operatori e nuove società del web. Dopo il dramma della New Economy nel 2001 c'è la paura che si possa ripetere un nuovo acquazzone proprio su quei social che avevano rilanciato l'immagine di Internet. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora andiamo con le altre notizie in breve. Per quello che riguarda la pagina economico-finanziaria della giornata, sono quasi tutte all'interno dei nostri approfondimenti. Faccio notare che oggi Deutsche Bank ha detto di aver raggiunto un accordo con i sindacati per 1000 esuberi. Di Deutsche Bank si è occupata anche Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario, che ha detto un patteggiamento tra la Deutsche Bank e le autorità americane prima arriva meglio è. Ha anche ricordato che il debito greco è comunque insostenibile, deve fare di più sul fronte delle riforme, ma in Grecia ci sono stati parecchi scontri dei pensionati che sono visti decurtare in maniera pesantissima la pensione. Dicevo però anche dalla Lagarde ha anche aggiunto attenzione, l'attuale livello del debito della Grecia è insostenibile e il Fondo Monetario ha mostrato comunque una sua flessibilità. Poi ha chiesto sempre Christine Lagarde che le banche centrali non siano lasciate sole nel loro sforzo di aumentare la liquidità e quindi far ripartire l'economia in primo luogo dell'area euro. Su questo oggi è uscito tra l'altro il verbale della Banca Centrale Europea in cui viene confermato che il quantitative easing, i 60 miliardi più gli altri 20 dati per l'acquisto di titoli anche bancari, ma insomma i 60 miliardi immessi ogni mese resteranno fino a marzo o oltre se necessario. Anche perché dai verbali viene definito cruciale e di cruciale importanza mantenere il sostegno monetario nell'area euro, e sempre nei verbali della Banca Centrale Europea si legge che non vi sono dubbi sulla determinazione con cui la BCE continuerà a acquistare asset e quindi in linea con quanto già deciso in passato, e anche di adottare ulteriori misure se necessario per centrare l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Cosa vuol dire? Per arrivare a un po' di inflazione in più nell'area euro. In questo momento la deflazione o l'inflazione a zero non è considerata una stabilità dei prezzi, visto che la BCE indica intorno al 2% l'inflazione ottimale da avere nell'area euro. E devo dire che oggi Angela Merkel, su un tema delicatissimo, ne abbiamo parlato molte volte, il fatto che la Germania abbia un grossissimo avanzo sia commerciale che di bilancio, ma non spende i soldi che ha in cascina, e questo non è accettato dagli accordi di Maastricht, in cui tu non puoi avere troppo deficit ma non puoi avere nemmeno troppo surplus di bilancio o surplus commerciale. Oggi Angela Merkel ha detto, intervenuta alla conferenza dell'Associazione degli Industriali Tedeschi a Berlino, ha detto noi siamo pronti a più investimenti per modernizzare il paese, e vogliamo avere margini più alti di investimento sia per le infrastrutture, quelle dei trasporti, sia per quelle digitali. Spostiamoci all'Italia, dove oggi è intervenuto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi all'Assemblea degli Industriali di Torino, e ha detto sostanzialmente che da un lato trova spassosa la discussione su quanto cresce il PIL, ma ha anche chiesto che in generale la si smetta di andare in Europa a parlare male dell'Italia. Quando si va all'estero occorre difendere i propri colori. Siccome io ritengo che per questo paese, da Torino a Ragusa, da Bolzano a Carbonia, quando qualcuno insulta il nostro paese bisogna reagire e bisogna farla finita di andare in Europa a parlare male dell'Italia, come hanno fatto in tante parti diversi colori politici, e ancora qualcuno lo sta facendo, non capendo che quando si va all'estero si va difendendo l'interesse nazionale e non sparlando male della bandiera e dei colori che rappresentiamo. Onestà intellettuale vuole che dica che questa è anche un'autocritica per la mia parte politica. Potremmo stare a discutere della statistica quanto si vuole. Il punto vero è che nel 2012-2013, nei momenti più devastanti dell'austerity, con il taglio degli investimenti pubblici da 40 a 20 miliardi di euro l'anno, che è una cosa incredibile, nel silenzio dei grandi editoriali, nel silenzio dei grandi commentatori, nessuno che abbia posto il tema drammatico del fatto che si stava dimezzando l'investimento pubblico, non importa essere keynesiani, basta essere normali. A fronte di questo noi avevamo meno 2-3% nel 2012, meno 1,9% nel 2013. Ora saremo allo 0,9% o all'1%? Non lo so. So che questi 3 punti di differenza segnano un'inversione di rotta, ma a me non basta. Se trovate uno che si accontenta dell'1% di crescita, ricoveratelo. Io non dico che va bene, ma dico anche che per come siamo partiti, il fatto che vadano meglio ci spinge a dover fare di più. Non parlare con gli imprenditori, parla con i lavoratori. Ora, io vorrei svelare un segreto a cotanti esperti di sociologia urbana. Se non ci fossero gli imprenditori che sono i primi lavoratori, non ci sarebbero le imprese. Non è un gioco di parole. E se non ci fossero le imprese, come vorrebbe fare qualcuno che vorrebbe deindustrializzare il mezzogiorno e immaginare di vivere soltanto di servizi, non ci sarebbe il futuro del paese. La nostra visione economica dei prossimi anni è banalmente la seguente. L'Italia deve togliersi di dosso l'atteggiamento della rassegnazione. E poi la burocrazia, però qui il tema l'abbiamo sollevato anche ieri, la riforma Madia, da quello che leggiamo sul ruolo dei dirigenti della pubblica amministrazione, sta incontrando grossissime difficoltà anche per le resistenze stesse dei dirigenti. Comunque Renzi sulla burocrazia ci sta distruggendo, su questo ci sono pochi dubbi. In un labirinto come questo va lento anche Usain Bolt. E poi ha fatto una battuta, quello dei TAR, avatar e controtar, un meccanismo che non può funzionare. Non c'è verso. Se tu hai un sistema nel quale hai un bicameralismo paritario come quello che conosciamo noi, ma è anche semplicemente un'ordinaria amministrazione per la quale qualsiasi decisione deve andare al TAR, dalla data delle elezioni alla scelta se vaccinare o no le persone, dal numero chiuso di medicina fino alle scelte aziendali, fino agli investimenti stranieri. TAR, avatar, contro TAR è un meccanismo che non può funzionare. È un meccanismo che porta a bloccare il paese. Allora, io sono per la pista piana. Questo mi viene detto essere un atteggiamento superficiale. Io penso che sia un atteggiamento di semplicità, e la semplicità è una grande parola, non il semplicismo. La semplicità. Poi sulla pista piana chi è più forte corre. Poi sulla pista piana sui 100 metri chi è più bravo ce la fa. E chi non è più bravo gli diamo una mano. Ma chi è più bravo sulla pista piana deve tirar fuori la gamba. Sul labirinto no, perché non si capisce dove si va. C'è la curva, c'è il capo di gabinetto dell'amico degli amici che ti dice dove si fa a passare, come si fa a andare. Allora, tutto condivisibile, il punto è che essendo appunto il Presidente del Consiglio al governo e la riforma Madia della pubblica amministrazione va o dovrebbe andare nelle intenzioni in questa direzione, vedremo di capire come finirà, perché ripeto, le resistenze, citava Renzi i capi di gabinetto, degli altri dirigenti della pubblica amministrazione, ministeriali in primo luogo, sono fortissime perché capiscono che rischiano di perdere un potere che è un potere in primo luogo, l'abbiamo spiegato moltissime volte, di interdizione. Questo non va bene, cioè di poter dire no, di bloccare un iter, di bloccare una riforma, di mettere mille veti, di non assumersi le responsabilità. Va bene, poi Renzi ha anche annunciato che il prossimo G7 sull'industria si terrà il prossimo anno a Torino. Il presidente di Confindustria presente in assemblea, chiaramente l'industria di Torino, Vincenzo Boccia, ha detto che la direzione di marcia deve essere una, al paese serve un'unica politica economica, non possiamo avere una politica dei fattori a livello nazionale e poi nelle regioni una politica dei settori. Ci sono ancora, scusate, è partito per sbaglio il file precedente di Renzi. Ancora andiamo alla vicenda dell'Italia, mentre vedo che poco fa il ministro Del Rio ha detto ai vertici dell'Italia che il governo ha mantenuto tutte le promesse. Oggi hanno preso posizione i sindacati dei piloti in merito al tema di Alitalia, che ha sollevato ieri Gianni Dragoni su Sole 24 Ore. I piloti dicono: contro questi annunciati nuovi tagli dei posti di lavoro e dei salari noi scioperiamo e sciopereremo senza farci intimidire. Va bene così, attenzione, il problema nell'Italia è il modello di business, quindi tu puoi scioperare quanto vuoi, ma se, come spiegava ieri Gianni Dragoni, le perdite continuano a aumentare, forse devi ricapitalizzare, fatti anche qualche domanda. Ma va bene, si fa per dire. Partiamo adesso con il tema dei marchi e dell'S lunga, arrivandoci però a livello più globale, ossia partendo dalla classifica che come ogni anno è uscita, non tanto dei 400 miliardari americani, quella di Forbes, ma dei marchi che esprimono al loro interno maggior valore nel fatturato complessivo. Tu puoi avere un marchio che contribuisce più della media al fatturato che riesce a generare poi l'azienda che questo marchio rappresenta, oppure puoi avere un marchio che paradossalmente dà poco valore aggiunto al fatturato complessivo dell'azienda che esso rappresenta. La classifica, come sempre, viene fatta da Interbrand. Allora, parliamo appunto della classifica annuale di Interbrand e lo facciamo con il responsabile per quello che riguarda, prima di arrivare all'Esselunga, Caprotti, al suo testamento, il responsabile della parte Europa e America Latina, Manfredi Ricca, buonasera. Buonasera. Se ho ben visto, anche quest'anno restano, diciamo, ai vertici Apple, Google e Coca-Cola, 1, 2 e 3, come i marchi, i brand, come dicono gli anglosassoni, che hanno maggior valore e capacità di proiettare questo valore sui fatturati. Devo dire che sono invariate queste tre posizioni da 4 anni a questa parte. Abbiamo visto invece qualche movimento più forte su alcuni settori, in primo luogo tecnologia e automobili, dall'altro c'è il retail, quindi le vendite ai consumatori, che è cresciuto tantissimo. Manfredi. È giusto parlare di tecnologia e automotive, perché quello che vediamo quest'anno è come questi due settori siano sempre più convergenti fra di loro, nel senso che i brand che crescono di più in ambito automotive sono anche brand che si stanno interrogando su cosa significhi oggi e soprattutto domani essere automotive, quindi quale possa essere la tecnologia e il fatto che essere automotive domani possa non necessariamente significare semplicemente produrre qualcosa di tangibile delle automobili, ma soprattutto saper offrire anche servizi di mobilità integrata. Il top riser di quest'anno in termini di automobili è Toyota, che è nella top 10 e che sta sperimentando molto sia sull'ambito dell'intelligenza artificiale e anche per quanto riguarda, e non è una novità questo, tutto l'ambito della sostenibilità, con il grande successo che la nuova versione della Prius ha avuto. E tra l'altro è entrato come nuovo ingresso al 100° posto Tesla, ho capito, cioè l'ultimo, ma è entrato, no? È entrato, ci stavo giusto arrivando, perché questo è un brand che ha fatto della sostenibilità e della nuova mobilità a propulsione elettrica la propria bandiera, ed è un brand che sta in seno a un'azienda che ancora non, di fatto non produce utili, ma che in termini di proiezioni ha il consenso da parte di analisti e investitori sul fatto che sarà una delle grandi realtà. Quello che trovo affascinante di questo brand è che, per quanto di scala molto minore rispetto ai tradizionali costruttori, è un brand con cui nessuno può permettersi di non fare i conti, è uno di quei brand che arrivano e di fatto cambiano o costringono a cambiare le regole di un settore. Eh sì, perché occupano anche una posizione nella città vuota e obbligano tutti gli altri a confrontarsi e a ridefinire sulla base di te. L'abbiamo visto capitare moltissime volte, per esempio nella cosiddetta economia della Silicon Valley, per essere generici, quando arriva un nuovo, un incumbent e tutti gli altri si devono adeguare. Allora, chi mi scrive, ma sono i soliti marchi grossi? Sì, in effetti nella prima parte della classifica abbiamo i grandi marchi, oltre a Apple, Google e Coca-Cola, c'è Microsoft al quarto posto, Toyota, IBM, Samsung, Amazon, Mercedes-Benz e General Electric. Però ho visto anche un posizionamento più che buono della Lego, che è tutt'altro che, diciamo, un marchio di quelli dell'information technology o diciamo di quelli storici, e anche l'ingresso di Dior all'89° posto. Però noto che gli italiani sono sempre pochi e sempre bassi. Prada è all'81° posto, Gucci al 53° posto. Manca Ferrari? Manca Ferrari per motivi dimensionali, simili a quello a cui si faceva cenno prima. Nel momento in cui guardiamo un brand da un punto di vista del valore economico, non è possibile ignorare quella che è la magnitudo finanziaria dell'azienda in seno a cui appunto il brand si trova. Ferrari è senz'altro uno dei brand più affermati al mondo, su questo non c'è alcun dubbio. Da un punto di vista di giro d'affari, proprio per il business model che ha, evidentemente è di scala minore rispetto a brand che sono magari di per sé meno noti, meno affascinanti, però di fatto hanno un giro d'affari e quindi una dimensione economica che è nettamente maggiore. Per quanto riguarda gli italiani, sì, siamo fermi a Gucci e Prada. Prada in particolare ha avuto una performance non brillante a causa di un rallentamento commerciale di questi ultimi anni, dovuto anche al peso della presenza distributiva che aveva costruito in precedenza. Gucci invece sembra aver ritrovato uno smalto interessante anche in virtù della nuova direzione creativa. Quello che è utile e interessante a mio avviso sottolineare di Prada è come però il brand e la forza di questo brand abbia agito da mitigatore di rischio e che quindi abbia in qualche modo fatto da paracadute a quella che è stato il rallentamento economico da un punto di vista di performance economica del brand. I brand servono a questo, servono non solo ad accelerare la crescita, ma servono anche a mitigare quelli che sono i momenti di pausa o di interlocutori da un punto di vista commerciale. Sì, l'esempio del paracadute mi sembra molto calzante, cioè quando tu hai un marchio forte, anche se delle volte i prodotti, le strategie commerciali, l'andamento del mercato stesso per fattori anche esterni possono darti torto e andarti contro, il brand un po' da paracadute, diciamo, da rete di protezione funziona. Grazie anche appunto al responsabile di Interbrand per Europa e Latino America, Manfredi Ricca. Grazie a voi. E adesso andiamo sul metro della pubblicità, poi invece a proposito di marchi parleremo di quello che potrebbe succedere alla grande distribuzione italiana. La vicenda si chiama Esselunga, l'avete letta sui giornali, il testamento di Caprotti, ma non tanto il testamento di Caprotti quanto l'interessamento per un gruppo che ha un ottimo posizionamento di mercato, è il terzo gruppo in Italia, e chi si sta muovendo e quali potrebbero essere gli scenari. 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. I wanna be free. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo, è scomparso lo scorso 30 ottobre a quasi 90 anni Bernardo Caprotti, mitico fondatore, mitico anche perché il personaggio aveva un bel carattere, diciamo così, fondatore della supermarket italiani, la holding che controlla Esselunga. Avrete letto sui giornali, ha lasciato alla seconda moglie Giuliana Albera e alla figlia Marina la quota che disponeva del 25% di cui poteva disporre come lascito testamentale del 25%, insieme alla legittima che le due donne già, di cui le due donne già avevano diritto, avranno in questo modo il 66,7% del capitale. E invece, quindi, estromessi anni fa dall'azienda i figli del primo matrimonio Giuseppe e Violetta, con queste disposizioni, al di là del resto che vedo oggi sui giornali, alla segretaria, ma parliamo un attimo dell'Esselunga come gruppo, questa scelta comunque, lo vogliamo vedere, dà vita a un socio di riferimento forte che quindi potrà gestire il futuro di Esselunga. Che significa il futuro del terzo gruppo italiano nella grande distribuzione, con una quota di mercato di quasi il 13%, 151 punti vendita, 20.000 dipendenti, è leader incontrastato soprattutto nel nord-ovest, nel nord, il centro-nord è molto presente, conosciamo i problemi invece nel nostro mezzogiorno, ha un giro d'affari e nel centro Italia di 7 miliardi e 300 milioni di euro, ha chiuso 2015 con 290 milioni di utile. Con un 4% di ricavi, un livello molto alto anche se comparato alla media del settore, e poi ha la società immobiliare Villata che ha un patrimonio di 400 milioni di euro, sono punti vendita Esselunga dati in affitto alla stessa catena di supermercati, ma anche terreni agricoli e immobili industriali. Ora, come scrive oggi Lello Naso su Sole 24 Ore, Esselunga rappresenta anche una best practice, cioè un modello di riferimento per tutti gli altri concorrenti, per la capacità che ha avuto di valorizzare alcuni prodotti, lavorare sulla qualità, le campagne pubblicitarie. Lello Naso, che è responsabile delle pagine di Imprese e Territorio del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Allora Lello, iniziamo a chiarire alcune cose. Se guardiamo la classifica che oggi voi pubblicate in prima pagina, la Coop Italia ha 813 punti vendita e il 17% di quota di mercato, poi Conad ha 1454 punti vendita ma ha un po' meno di quota di mercato, il 14,5%, poi arriva Esselunga 151 con quasi il 13%, poi scendiamo Selex con il 12% di quota di mercato e 1100 punti vendita, il gruppo Auchan 700 punti vendita 8%, mi fermo con Carrefour 400 punti vendita 6% della quota di mercato. Tu dicevi attenzione a non disperdere quello che è in qualche modo il modello Esselunga come best practice italiana. Sì, assolutamente, e quei numeri sono impressionanti per un motivo, si spiegano con un altro numero che io mi permetto di aggiungere. Sì. Il fatturato per metro quadro di Esselunga è di 16.000 euro, sono dati Mediobanca, contro gli 8.150 euro medi di tutti gli altri gruppi della grande distribuzione, italiani e europei. Cioè in un negozio Esselunga si vende il doppio, esattamente il doppio di quello che si vende in tutti gli altri supermercati europei. È una cosa incredibile. Questo è il mix geniale di Caprotti, aver individuato un modello in cui le referenze, cioè i prodotti che troviamo sugli scaffali, sono pochi e ben selezionati, non sono un'enormità. Cioè noi arriviamo nel supermarket Esselunga e sappiamo esattamente cosa troviamo, dove lo troviamo e c'è quello che ci serve, il meglio. Seconda cosa, sono delle campagne di marketing aggressive, ma che mirano a un target particolare, che è un target medio-alto, è quello di una popolazione collocata nella parte più ricca del paese, è stata l'altra grande scelta di Bernardo Caprotti, e quindi vanno a mirare chi ha alta capacità di acquisto, di spesa. Sì. Terza cosa che non emerge dai numeri, ma che è il mix geniale altro di Bernardo Caprotti, quello di aver messo assieme due generi di affari, le vendite della grande distribuzione e l'immobiliare. Per esempio i milanesi sanno che sui supermercati di Caprotti ci sono gli appartamenti, in via Losanna a Milano, zona Corso Sempione, ci sono degli appartamenti di lusso che stanno sopra il supermercato nato di recente da una demolizione e poi costruzione di aree vecchie. Per esempio, altra cosa che aggiungo, Caprotti ha comprato da Stefana, che era un gruppo della siderurgia italiano, detto l'Ilva del Nord, gli ex stabilimenti dal concordato fallimentare per farne il polo logistico per servire tutto il nord est dell'Italia. Quindi anche un fiuto degli affari immobiliari molto superiore alla media. Allora, questi che tu hai ben descritto, gli elementi chiave del successo di Esselunga, che è impressionante il dato che tu hai dato, cioè quello che riesce a sviluppare come fatturato il metro quadro di Esselunga è il doppio della media europea, 16.000 euro per metro quadro contro 8.100 della media europea, e già la dice lunga su quanto può essere appetibile Esselunga. Scusate il gioco di parole. E infatti gli elementi che tu citavi, quindi pochi prodotti ben selezionati e facilmente riconoscibili, che vanno a rivolgersi a un target medio-alto in zone con un buon potere d'acquisto, e poi anche unendo i ricavi che arrivano dall'attività immobiliare, appunto la Villa Alta ha un patrimonio di 400 milioni di euro. Dopo il traffico vorrei sapere l'ultima cosa, che però è anche la più importante: chi potrebbe comprarsela? Perché le caratteristiche che tu ricordavi sono di una fascia appunto medio-alta, e che tra l'altro collocate in alcune aree geografiche abbastanza precise nel paese. Ricordo che sono arrivate proposte d'acquisto dei fondi Blackstone, CVC e tra l'altro l'advisor è Citigroup. Lui stava lavorando a una cessione, Caprotti, prima di scomparire. Dopo il traffico la risposta. Focus Economia. Allora, Lello Naso, a questo punto chi potrebbe essere interessato, viste le caratteristiche abbastanza anche peculiari di Esselunga, ma anche questi ricavi pazzeschi che genera a metro quadro? Io temo dovremmo aspettare un paio d'anni per sapere esattamente la risposta. Dico perché? Perché da quello che emerge proprio ora, stiamo studiando bene il testamento di Caprotti e quello che c'è scritto. C'è un percorso che Caprotti, secondo noi, ha delineato abbastanza. Cioè, lui era consapevole che per le sue vicende familiari, non nascondiamolo, aveva un contenzioso, aveva avuto un lungo contenzioso giudiziario con i figli di Primo Letto, Giuseppe e Violetta. Non poteva lui risolvere la questione in vita. E allora cosa ha delineato? Ha delineato questo percorso. Do una maggioranza stabile alla moglie e alla figlia di Secondo Letto. Nello stesso tempo gli eredi di Primo Letto hanno una quota consistente, per cui cosa fanno gli eredi di Primo Letto? Nominano un avvocato che si chiama Sergio Erede, che è un avvocato che viene è noto per la sua grande capacità di conciliare le vicende. E allora il presidente appena nominato, Pier Gaetano Marchetti, sospende la vendita del gruppo in attesa che la famiglia di Primo Letto e la famiglia di Secondo Letto trovi un accordo per poi poter entro 2 anni, che questo è il tempo presumibilmente più adeguato, poter vendere alle migliori condizioni possibili. Ricordiamolo che parliamo di un gruppo con 7,2 miliardi di euro di fatturato e la cui valutazione oscilla intorno ai 5 miliardi di euro. 5 miliardi di ecco, euro. Domanda, ma perché non può restare da sola o non può essere gestita dall'attuale assetto Esselunga? Esselunga potrebbe tranquillamente rimanere da sola, ma sarebbe... diciamo continuerebbe questo business su un'area del paese abbastanza circoscritta e rischierebbe nel tempo, nel medio-lungo periodo, di vedere l'erosione di questo modello. Cioè la Ferrari dei supermercati non può rimanere la Ferrari dei supermercati se non si sviluppa. Servono capitali giganteschi per sviluppare un business e un target di così alto livello, e quindi serve o un fondo o, nelle intenzioni di Caprotti, un grande gruppo internazionale. Lui aveva più volte detto, Bernardo Caprotti, che quelle di Walmart erano bullshit, le aveva definite lui in una pubblicamente sciocchezze, stupidaggini, perché Walmart non ha le caratteristiche adeguate per essere per controllare Esselunga. Si diceva che lui avesse una preferenza per Deleuze, che è un gruppo molto simile ad Esselunga per caratteristiche. Bisogna vedere se Deleuze, che è un gruppo belga multinazionale, ha la forza per poter fare questa operazione o ne ha ecco, la volontà. Un'ultima domanda, ho un minuto scarso. È un acquisto, un'accordata italiana? Un accordato italiano la auspichiamo sempre, però nei gruppi della grande distribuzione è un po' difficile che ciò avvenga, non ci sono le dimensioni e non c'è la massa critica per farlo, e poi già le mettere assieme, chi conosce il mondo della grande distribuzione italiana sa che è un mondo molto frammentato in cui c'è moltissima concorrenza ai limiti della spigolosità tra di loro, per cui mettere assieme le Coop con Conad, che è un consorzio che mette assieme altri marchi, è estremamente complicato. E se ci riuscissero sarebbe auspicabile, però davvero difficile. Sì. Faccio notare, nel ringraziare Telenaso, che alcuni ascoltatori ci scrivono anche che, da consumatori affezionati, fanno notare che ha anche un'eccellente fascia di prodotti discount, quindi non solo per la parte alta, diciamo, della spesa, ma per tutte le tasche. Bene, prendiamo atto. Adesso non è che vogliamo fare pubblicità, a noi interessa il futuro di un gruppo che appunto è valutato circa 5 miliardi di euro e che ha questi numeri incredibili sulla redditività per metro quadro. Grazie al responsabile di impresa e territorio del Sole 24 Ore, Lello Naso. Andiamo sul GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Poi parliamo di borsa, chiusura invariata, poco da dire oggi, ma Brexit e gli italiani che vanno all'estero per lavorare, il rapporto migrantes diffuso oggi. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Passiamo adesso alla borsa. Oggi giornata non di quelle che resteranno negli annali. Invariati quasi tutti gli indici. Milano invariata, Parigi meno 0,2, Francoforte meno 0,1, Londra meno 0,50, Dow Jones invariato anch'esso, l'euro continua a rafforzarsi sulla sterlina, così come fa il dollaro. Tra i titoli, Unicredit più 2,30, A2A più 2,20, Azimut più 2, Mediobanca più 1,70, Prismian più 1,30 come generali, ed ST Microelectronics, bene anche UbiBanca più 1,20 come Buzzi Unicem. Fronte opposto, Monte dei Paschi di nuovo in calo e anche significativo, meno 3,30, 16 centesimi di euro per azione. Poste Italiane meno 2, media 7-1,5 come Atlantia, l'1,1 lo perde Terna e anche Luxottica. La Pop Milano cede lo 0,80%. Allora, dato su Monte dei Paschi, delle volte sembra quasi accanimento terapeutico, però insomma il titolo ormai vale meno di 500 milioni in borsa come capitalizzazione. Leonora Micheli, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, sì, MPS è andato su nuovi minimi, ormai vale 492 milioni di euro in borsa, e questo si scontra con il fatto che in teoria l'istituto dovrebbe lanciare nei prossimi mesi un aumento di capitale da 5 miliardi, entità che potrebbe ridursi comunque a 2-3 miliardi nel caso in cui siano convertite le obbligazioni subordinate. D'altra parte ovviamente i dubbi sull'operazione si fanno ogni giorno più insistenti, soprattutto perché calando il valore di borsa delle azioni diventerà sempre più difficile realizzare l'aumento di capitale. Tra l'altro questo si scontra con un andamento anche oggi come ieri abbastanza, ieri molto positivo, oggi comunque positivo, degli altri titoli bancari. Spicca sul fronte opposto Unicredit più 2,30%, qui continua a esserci la cessione di Pioneer, ma soprattutto di una maxi offerta. Sì, esatto, infatti ricordiamo che Unicredit presenterà il piano industriale a Londra a dicembre, ma soprattutto entra nel vivo la cessione di Pioneer entro inizio novembre. Entro il 3 novembre i pretendenti, che sono 4, dovranno presentare le proprie offerte, ma secondo indiscrezioni di stampa la Amundi sarebbe disposta a mettere sul piatto 4 miliardi di euro, livello ben superiore a quello ipotizzato dagli analisti che appunto nei giorni scorsi stimavano un valore di Pioneer ben inferiore, attorno a 2,5-3 miliardi di euro. Quindi questo ha spinto subito all'insù le azioni di Unicredit, che si sono distinte sin dalle prime battute di questa mattina. E invece UbiBanca sale anch'essa dell'1,20%, qui le indiscrezioni sono del Sole 24 Ore e di nuovo, come già dicevamo ieri, riguardano l'acquisto. UbiBanca è la principale indicata come acquisitrice delle quattro bad, o meglio delle quattro good bank, ex bad bank, mi riferisco a Chieti, Etruria, Ferrara e Marche. UbiBanca, anzi nei giorni scorsi ricordiamo aveva registrato anche un andamento debole proprio sull'ipotesi che debba rilevare le banche e debba effettuare anche un aumento di capitale. Oggi però proprio il Sole 24 Ore ha riferito che l'istituto acquisterebbe, sì, e sarebbe in trattativa per acquistare le quattro cosiddette good bank, però ponendo delle condizioni molto severe e molto stringenti, e quindi alla fine l'operazione andrebbe a suo favore. Migliori e peggiori in assoluto oggi sul listino: Biancamano più 13,70, Meridie più 8,40, Visibile Editore più 7,40 dopo l'annuncio di aver recuperato un milione per l'aumento di capitale, Tribù Media più 7,30, Safilo più 6%. Il fronte opposto vede tra chi più perde, Italia Independent meno 10%, Innovatech meno 6,60%, Lucisano Media Group meno 4,70%, Molmed meno 3,80%. Grazie, l'onore Michele, Radio Cori Sole 24 Ore. Noi adesso ci spostiamo a Londra perché aumenta la tensione tra Londra e Bruxelles dopo le dichiarazioni del ministro degli interni britannico, ormai famosissime, Amber Rudd, in tema di controllo dell'immigrazione per assicurare che i lavoratori stranieri assunti coprono solo i posti vacanti e non tolgano occupazione ai britannici. Devo capire come si riesca a stabilire questo. Comunque, parliamo di Brexit. I want to reduce net migration while continuing to ensure we attract the brightest and the best to this country. Voglio ridurre il flusso migratorio continuando a garantire l'arrivo degli elementi migliori in questo paese. È solo attraverso la riduzione dei numeri, riportandoli ad un livello sostenibile, che possiamo cambiare la marea dell'opinione pubblica sull'immigrazione in modo da renderla benvenuta di nuovo. Annuncio che presto faremo consultazioni sui passi necessari per controllare l'immigrazione. Esamineremo i percorsi per accedere al lavoro e agli studi. Analizzeremo se è il caso di rendere più severi i test che le società fanno sostenere prima di assumere persone dall'estero. Le imprese britanniche hanno trainato la ripresa economica del paese portando l'occupazione a livelli record. Tuttavia dobbiamo fare di più per permettere ai britannici di avere le giuste opportunità. I test devono garantire che chi arriva qui vada a colmare vuoti occupazionali, non posti che potrebbero essere coperti dai britannici. Quindi voglio che esaminiamo di nuovo se il nostro sistema di immigrazione fornisce i giusti incentivi alle società per investire sui lavoratori britannici. So I want us to look again at whether our immigration system provides the right incentives for businesses to invest in British workers. Meine Damen und Herren, wenn wir uns die wichtigsten Exportländer ansehen, se guardiamo i mercati più importanti per le nostre esportazioni, questi sono gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna. È per questo che la questione della Brexit riguarda anche la nostra economia e per questa ragione è chiaro che dobbiamo aspettare, come ha tenuto a precisare ancora una volta il primo ministro May, finché il Regno Unito non attiverà l'articolo 50 per lasciare la UE. Solo a quel punto negozieremo e non intendiamo certo condurre dei pre-negoziati. Ma possiamo dire in via generale che il pieno accesso al mercato interno della UE è legato e non può essere separato dall'accettazione delle quattro libertà fondamentali che includono anche la libera circolazione delle persone. Allora, è uno scontro che ha delle figure tutte al femminile, per la cronaca, quello appunto, avete sentito la voce del ministro degli interni Amber Rudd e la risposta che oggi ha dato Angela Merkel, a cui aggiungo anche quella del negoziatore del Parlamento Europeo per la Brexit, l'ex premier belga Guy Verhofstadt, che ha detto, attenzione, difenderemo la libertà dei cittadini dell'Unione Europea. E sul tema appunto della libera circolazione delle persone, ieri la Theresa May, la premier britannica, aveva detto noi non lasciamo l'Unione Europea per ridarle il controllo sull'immigrazione, la lasciamo per tornare a essere un paese pienamente sovrano e indipendente. L'accordo che cercheremo con Bruxelles dovrà funzionare per la Gran Bretagna, per i nostri interessi nazionali. L'autorità delle leggi europee sul Regno Unito è finita per sempre. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra e dalla Gran Bretagna, buonasera. Buonasera a voi. Ecco Leonardo, mi sembra che il tema del, o meglio, lo scontro, altro che trovare un accordo, che lo scontro tra Bruxelles e Londra continui ad aumentare quanto a livello di intensità. Non è che la Gran Bretagna rischi poi di irrigidire tutti i rapporti a cui tiene, per esempio i trattamenti fiscali e quant'altro? Assolutamente sì, poi però bisogna vedere questa dinamica nel contesto di un cambiamento politico radicale. Cioè la May ha annunciato che il vecchio partito conservatore, quello di stampo thatcheriano, liberista, che detestava l'intervento dello Stato nella vita economica, bene, quel partito è finito. Adesso c'è un nuovo partito di stampo così vagamente sociale, come dire, una forma di partito democristiano alla britannica, se vogliamo banalizzare o fare un esempio più vicino. Questo è un cambio radicale perché rivoluziona completamente la mappa della politica inglese. L'obiettivo è quello di cercare di prendere le spinte più populiste, quelle dell'UKIP, eccetera, e di portarle dentro al partito per imbrigliarle. Però il risultato sarà un partito che ha una pelle diversa. E chi se ne accorgerà per primo oggi sarà il cancelliere Philip Hammond, che in queste ore è a Wall Street a incontrare tutti i banchieri americani, quelli che minacciano di andarsene dalla City. E a questi lui dovrà invece cercare, come dire, di presentare ancora una piazza teoricamente appealing. Sarà estremamente difficile, perché quello che ha detto la May ieri e nei giorni precedenti è chiaramente lo strappo, la volontà di marciare verso una hard Brexit. Questo non è detto. Questo non è detto, però questo è quello che lei ha voluto manifestare. E faccio notare che oggi la Nissan, che ha un grossissimo stabilimento in Gran Bretagna, ha detto che sta valutando se continuare a produrre crossover in Gran Bretagna, a meno che la Gran Bretagna non trovi soluzioni per compensare gli eventuali effetti sui dazi doganali, non essendo più nell'Unione Europea, produci all'estero extra UE. Nel frattempo anche EasyJet per la prima volta dal 2009 ha risentito della Brexit, lo dice nel comunicato, e della discesa della sterlina, che è ai minimi da 31 anni sul dollaro e molto bassa da 7 anni anche nei confronti dell'euro. Dopo il traffico, però vorrei un'ultima risposta a te, Leonardo, perché mi lego all'altro tema, e quindi il rapporto Migrantes di oggi, che vede la Gran Bretagna dopo la Germania come prima meta degli italiani, 16.500 in Germania, 16.568 in Germania, 16.503 in Regno Unito, sulla base dei dati del registro degli italiani all'estero, residenti all'estero, perché vorrei capire se, per esempio, la City o Londra stessa potrebbe funzionare senza non solo i ragazzi che studiano e vanno lì a lavorare, facendo lavori anche, diciamo, di fascia bassa, ma tutti i laureati tedeschi, francesi, italiani, che forniscono manodopera di altissima qualità. La formazione non la paga la Gran Bretagna, ne becca gli effetti positivi. Questo era sempre stato il segreto della grande capacità, in primo luogo di Londra, di assorbire teste oltre che braccia. Ce la può fare, e quindi oppure è solo demagogia per motivi elettorali? Dopo il traffico, la risposta. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento Focus Economia. Di nuovo in diretta. Allora, Leonardo Maisano, demagogia o realmente i laureati e le persone formate europee rubano lavoro ai britannici? No, il successo di Londra in questi 20 anni, 30 anni nasce dal fatto che Londra è stata la città aperta, no? Aperta a tutto il mondo, all'Europa in particolare, per cui è stata in grado, come dire, di diventare polo di attrazione per le persone di maggior valore, o alcune delle persone di maggior valore, sicuramente tutte ovviamente, però, e su questo Londra è fiorita. Quindi se a Londra chiude le porte, o dovesse chiudere le porte, l'effetto è la prima ricaduta è su Londra stessa, e Londra rappresenta un quarto del prodotto interno lordo del Regno Unito, e senza Londra la Gran Bretagna non so dove si colloca nei paesi del G7, del G20. Non ne esce proprio, perché il 25% del PIL ne esce completamente, certo. Ovviamente. Quindi Londra è questo. Allora, ringrazio per averci raggiunto in collegamento anche il professor Alessandro Rosina, che è demografo all'Università Cattolica di Milano. Buonasera, professore. Buonasera. Spero di riuscire a affrontare, casomai la riprendiamo anche domani, l'altro tema, perché si collega in maniera molto forte, ossia il rapporto Migrantes di oggi, quello che va a vedere i dati di chi si registra all'AIRE, quindi i residenti italiani all'estero, sono aumentati a 107.529 i connazionali espatriati nel 2015, ossia un 6% in più. Soprattutto i giovani fra i 18 e i 34 anni sono il 37% del totale, 40.000. Meta preferita la Germania, quindi appunto 16.568, poi il Regno Unito 16.500, poi Svizzera 11.000, Francia 10.000. La cosa interessante è che la maggior parte provengono da Lombardia 20.000 e Veneto 10.300. domanda volutamente provocatoria, ma dobbiamo essere veramente preoccupati se un giovane va a fare un'esperienza tra i 18 e i 34 anni a Londra, in Germania? Cioè, è veramente un tema questo, o il tema è che noi non riusciamo a trarre altri giovani di altri paesi? Esatto, questa è la seconda, è la risposta giusta. È sempre di più da considerare del tutto naturale che i giovani italiani, ma non solo, facciano esperienze di studio e lavoro in un altro paese e quindi arricchiscano il loro background di esperienze, di confronto internazionale, perché questo li rafforza, li arricchisce, li rende più intraprendenti. Quello che invece però fanno gli altri paesi è compensare il flusso d'uscita con un altrettanto, se non maggiore, flusso di entrata, e quindi rende in qualche modo circolare questa esperienza, perché altrimenti noi formiamo e poi li perdiamo. Quindi è questa sfida sostanzialmente che noi non riusciamo a vincere. Sono troppi giovani, anche dalle regioni più dinamiche che offrono di più, come Lombardia e Veneto, e anche di alto livello e alta formazione, che non trovando adeguata valorizzazione del loro capitale umano si trovano ad andare all'estero. Se vogliamo usare una metafora calcistica, è come se noi avessimo in Italia solo la Serie B e la Serie C. La Serie C nel Sud Italia, e quindi i giovani più brillanti che vogliono giocare in Serie B si spostano da sud al nord. Quelli che però vogliono giocare in Serie A e quindi dimostrare quanto valgono in un ambiente al massimo, insomma, di opportunità e competitivo, non trovano in Italia la possibilità di farlo e quindi si spostano all'estero. E quindi noi abbiamo o giovani che restano in Italia e si rassegnano al ribasso, oppure chi non si rassegna va altrove. Oddio, visto che il paragone calcistico è molto calzante, potremmo dire oppure come se avessimo in Italia una Serie A fatta solo di 6-7 squadre, quindi poi se tu vuoi dare possibilità a tanti possibili campioni o futuri campioni, devi andare a cercarti una squadra all'estero, perché le squadre da noi, non è vero che non ci sia una Serie A in Italia, però è come se avesse un campionato molto molto limitato. Senta professore, però voi avete anche dei dati su quanti stranieri riusciamo noi ad assorbire a livello di formazione e poi di lavoro? Perché vedevo un dato l'altro ieri che a Milano ci sono 18.000 stranieri che studiano diciamo nelle varie università in questi anni, per cui riusciamo ad avere anche un dato complessivo tra quelli che escono, cervelli in fuga o comunque italiani in fuga, o che magari vanno anche a fare un'esperienza, quindi non sono in fuga, si stanno formando ulteriormente per poi tornare, e quelli che noi riusciamo a assorbire e quelli che poi come italiani rientrano, cioè il saldo al netto di tutto? Sì, no, il saldo ce l'abbiamo, e il saldo lo si può fare però solo sui trasferimenti di residenza, lo possiamo concentrare sui trasferimenti di residenza dei laureati, così guardiamo il capitale umano più elevato, e quello che si vede è che per ogni 3 laureati o 4 laureati che se ne vanno riusciamo a trarne solo uno. È vero che poi ci sono alcuni contesti, come le grandi città, quelle più dinamiche, come lo è Londra in Inghilterra, come lo è Milano in Italia, fanno un po' un gioco a parte e quindi riescono maggiormente anche ad essere attrattive, e Milano effettivamente è molto cresciuta in termini di attrattività negli ultimi anni. Ricordiamo però anche, a complemento di quello che dicevate prima, che riguardo al referendum inglese Londra aveva votato in maggioranza per il Remain. È vero, è vero. Quindi questo è da sottolineare, vuol dire che lì ci si rende conto che bisogna aprirsi al mondo e non a chiudersi. È vero. In una battuta, Leonardo Maisano, secondo te come andrà a finire? Cioè la May, quindi torno anche al tema che riguarda poi anche i nostri giovani, perché le due cose si tengono, giovani non solo. La May andrà avanti su questa linea molto intransigente, adesso basta, usciamo dall'Europa, e quindi probabilmente si arriverà alla versione che tu definivi hard, cioè dura, della Brexit? La mia previsione è che l'Unione Europea resista a non divaricare libera circolazione delle persone dalla libera circolazione dei beni e dei servizi. Se resiste, in Gran Bretagna non possono permettersi, a mio avviso, un'uscita al buio dal mercato interno. L'esempio che hai fatto pochi minuti fa di Sunderland è la città, quella della Nissan, è la città dove c'è stato il più alto voto a favore della Brexit. Ed è la città dove la Nissan occupa 7.000 persone, e Gosnar con questo annuncio gli ha detto: guardate che se usciamo dal mercato unico noi gli investimenti qui non li facciamo più. Una nota solo a conclusione su quello che si diceva di Londra. Ha ragione il professore quando dice Londra ha votato per rimanere, però paradossalmente A Londra uno si sarebbe aspettato 80-20, invece è stato un 60-40, quasi uno su due ha votato, quindi c'è questa spinta del tutto ingiustificata, perché questa città grazie all'Europa è diventata quello che diventa. Ma siamo d'accordo, sono stati bravissimi gli inglesi, ripeto, nel prendere laureati, giovani, formati da altri paesi, quindi il costo se lo sono sostenuti gli italiani, i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, e averli già formati, facendoli lavorare lì, aumentando la produttività, e praticamente il tutto a costo zero. Vogliono mollare questo modello, sono liberi di farlo, del resto hanno già votato in parte in questa direzione. Grazie al professor Rosina, grazie a Leonardo Maisano in collegamento da Londra. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi, torna anche, ahimè, la classifica. Radio 24, la passione si sente.